mangia, da dopo ciao. Via, ciao. Sono rientrato, chi c'è? Riccardo, c'è ancora? Beh, vabbè. Ciao Lu, no, ho il telefono, c'era Riccardino poco fa, 10 minuti fa. È bello, tutto a posto. Al telefono, non al telefono, vabbè. Come, scusa? Quanto durava al telefono? Mi scusava, sì, era la videochiamata, era non proprio telefonata. Domani se ce la faccio, Luca, mi prometto di venire, che oggi dovevo salire perché sono andato a Predania e ho detto al ritorno passo da Luca, invece sono qui fra un'ora, mi hanno fatto perdere un sacco di tempo, dovevo portare il materiale al verniciatore, per cui non sono passato. Quando, vabbè, domani, sì, sabato non ci sono, sabato, vabbè, vado via intorno alle 10:30, 11 da casa. No, vabbè, se ce la faccio domani, tanto se dovessi venire sabato, io lavoro sino alle 10, vengo presto. Che non c'è problema, va bene Robe. Per quello tu fammi una chiamata per sicurezza. Già lo credo, non è che vengo così a vuoto, ci mancherebbe. Mi proprio poco fa c'era Gianni, lui ha toccato devo andare da Luca, mi dispiace per questa storia, sempre mi ha fatto il favore, che lo sta tenendo in parcheggio. E non c'è problema Robe. Che problema! Stavo pensando, siccome lo prendo un banacchino, no? Però c'è i tappi grigi, Robe, ed è brutto, c'ha il frontale nero e i tappi grigi, grigio al topo. Dai che te lo faccio io, portamelo, nero opaco naturalmente. Vendo Galax Uranus, trattato benissimo, funzionante al 100%, buonasera a tutti. Ciao, e con quale salerno? Manda la foto. Galax Uranus. E manda la foto. Sintonia continua. Uranus, ma non è Galax, dove c'è per Galax? No, è Galax, Galax Uranus, è Galax, sì. Manda la foto, fammi vedere com'è, là. Poi mi dici anche il prezzo. Domani te la mando, perché devo scendere in giù in garage, l'ho messo dentro la scatola. Manda la foto, è prezzo? Non lo so, ci mettiamo d'accordo. No, non prendo per il collo a nessuno, non ti preoccupare. È nuova, perché ultimamente sono baracchini in vendita, tutti graffiati. Sì, Robe, vabbè, ma così è solo la vernice e basta. Vabbè, ah, dipende, fammelo vedere com'è, ma riparate non sia tutto arrugginito, come? No, sono nuovi, te volevo comprare nuovo, sono nuovi tappi. Vabbè, lo facciamo nero, dai, se ti piace te lo faccio nero opaco. Che feuga, grigio a topo, no. Ma anche io dovrebbe essere abbinato, no? Cioè, nero è nero. Anche se, vabbè, diciamo che la Superstar 3009 è grigio con i tappi neri. Comunque, vabbè, è bello, i tappi neri sono il massimo, secondo me. Avanti, Riccardino. Dove è Claudio? Claudio non lo sento. C'è Eugenio, il grande Eugenio, il più forte del portatore. Salvate Eugenio. E su Robe, si vede, mi vuoi bene. Buonasera, ciao Riccardi. Ciao Eugenio. E allora, stavo dicendo Lu, adesso mi viene male a scendere in garage, è dentro la scatola. Cioè mi viene male, non mi viene male. Non la giugano. Domani te la mando la foto, dai. Ma oggi è digitale. È digitale, sì. No, però lo smitter normale. Ah, aspetta, c'ha il frequenzimetro e lo smitter normale. Lo sto vedendo qua, dai. Lo sto vedendo qua, c'ha 4 pomelli. Sotto al frequenzimetro poi c'ha 3, 6, 9, 12 tasti. E poi lo smette sulla destra, giusto, quello? Lo sai, non me lo ricordo se è sulla destra o sulla sinistra, boh. Sì, comunque Galax Uranus c'è solo quello, sì. C'ha il bip disseribile, c'ha i fat regolabili da 5 a 10, insomma c'è il completo, tranne l'eco. Questo qua costa almeno 100 euro su picclick.it. Sì, quella cifra lì, Lodo, quella cifra lì. Eia, no, perché io sono più interessato, vabbè, prendo un digitale, il 6009, il Superstar 6009. Ma comunque io uscivo, cioè parlavo con quello fino a poco tempo fa prima di usare questo qua, perché non ho voglia di rifarmi i tasti del microfono, se no avrei usato ancora quello. E come esce? Esce bene, esce, usciva come questo, con le VP più 5, che non ho il microfono con i tasti, con i fili, dai, con i contatti del microfono, se no te l'avrei fatto sentire. Ho capito. Via, avanti, Riccardino, riprendi. Ok. Allora, qua sei in Santiago 7, però la radio è un po' bassina, però il segnale è buono. Ok, grazie. Che Catalino più forte di me, allucinante. Tu da me sei 3, Riccardino, Santiago 3. Guarda, io voglio vedere, se mi arrivi, quanto mi arrivi, da nonna, allora va bene. Vedrai che poi quando d'inverno, vabbè, prima fare i compiti, poi l'inverno è più bello stare in radio, c'è freddo fuori, capito? L'estate magari sì, ti fa qualche collegamento, va bene, però l'estate molto molto meno. Ok, avanti Roberto. No, Riccardo, adesso ti ascolto bene in radio 9, radio 5, poco fa dei 9 però c'era un medio QRM, ti sentivo radio 4, 3, dai, perché ti disturbo, adesso si è abbassato, fortunatamente tutto il QRM si è abbassato, adesso sarà 5, sì, QRM, per cui ti ascolto perfettamente. Ok, bella comunque quella radio, Eugenio, non la conoscevo, pensavo che siccome c'era l'Uranio di Baracchino, però la stazione base, questo è un coso, un veicolare, bello, mi piace, l'unica cosa che non mi piace molto è lo Smith, però è completa, ho visto c'ha tutto. E beh, oggi, hai visto lui, carino? Luca! E a Roma? Ah, passa a mangiare la persona, stavo parlando, buh! E ma si è sentato? No, sono andato in un sito, praticamente ci sono i cosi, ma quasi manuali, PDF. Ma di che cosa? Di tutti gli altri, Galaxy Meraka, Galaxy Mercury, Galaxy Mirage, poi c'è Galaxy Neptune, Galaxy Plus, Galaxy Pluto, Galaxy Saturn, sono tutti i PDF, forse la tutta la cosa, la manuale. Ormai al solito si trova tutto, è interessante. Stavo dicendo, non è brutto quel baracchino, se lo dà quel prezzo e funziona, secondo me è regalato, va benissimo, perché ho visto c'ha tutte le bande, c'ha anche bande laterali, il microfono, la fotografia è normale, un microfono tipo della Consol, il classico microfono della Intec, però è carino. L'unica cosa la potevano fare un po' più decente, lo Smith, l'hanno fatto questo Smith cagattino, ma c'ha l'attacco del microfono laterale, mi sembra quello, no Luca? Grazie. L'attacco del microfono laterale non è frontale. Sì, è come il Typhoon, laterale. No, se va bene come il Typhoon è una radio interessante, a me non mi interessa naturalmente. Per chi piace, sembra completa, c'è anche il frequenzimetro, c'ha i canali, è bello, dai, è una bella la radio, non è neanche troppo antica come concezione, dovrebbe anche spingere, sono sicuro di sicuramente che spinge. Dimmi, Galaxy Uranus, cercalo, è bellino, un baracchino veicolare, è bello comunque, dai. È un buon prezzo, anche se funziona, se c'è anche la scatola, 100 euro regalato. Eccolo, un grande baracchino, però è una stazione base, c'è da dire che è uno scatolone perché poi lo apri dentro e è vuoto, e il Pluto ho messo dentro uno scatola grande con l'alimentatore, non è così Luca? Sì, sì, qua, allora, un Galaxy Pluto c'è qua, 120 euro, 18 watt, 30 SSB, un CW, 120 euro. Sì, se funzionate già va bene. Tra l'altro l'altro giorno la GBC per Natalino, ma i prezzi non li ha abbassati. Però ho detto 200 euro l'ana 48 e 300 l'8001, quasi a prezzo di listino, infatti ho detto lasciamo perdere. Purtroppo ci è capitato questo fatto che la domanda sta aumentando, se no sono sicuro l'avrei tirato molto di più e l'avrebbe liberato. Si è accorto che la gente li sta cercando di nuovo i baracchini, ha detto no, non lo svendo, lo lascio quasi a prezzo di listino. Vabbè, si fa pagare comunque. Vediamo un po', Eugenio, guardate, se no ce l'ha in casa per la radio. Saturn Echo c'è qua in frequenza, ce l'ha già nei doppio room, e poi chi ce l'ha, Luca? Antonello da Ossi. Ah sì, no, c'è bene. Comunque quella storia del cavo, Luca, l'ha presa anche il padre Riccardo, tutto a posto. Non ho capito, ma la storia... Del cavo, me l'ha portata ieri a me, l'ho fatto prendere anche al padre di Riccardo. Ah, ok. Se non l'ho telefono, ce l'ho telefonato, gli ho dato un messaggio e gli ho detto che gli ho dato il mio numero, ho detto sì, già ci mettiamo d'accordo, perché è inutile fare passamano, girare, rigirare, ho detto mettetevi d'accordo voi e va arrangito. Ehi, aia. E si conferma. C'è anche il cavo più grosso, anche migliore, però è troppo grosso, troppo ingombrante. Io ho il 213 doppia calza qua, a casa della mamma. No, lui c'ha anche il cavo più grosso, c'ha la Camille. Ho capito, ma dico io, c'ho quello lì, diciamo un cavo un po' così, dai, un po' stupido, nel senso che non ce la fai a giocare come voi, c'è il 58, te lo giochi come voi, tutti come voi, questo qua per fare il piede è un casino, perché prima devi sbucciare la guaina, poi siccome il PL io l'ho affitto, ti spiego, no? Taglio una, siccome c'è la doppia carta, no? la prima gliela taglio, poi gliela torci sopra, aspetta, non rimane più appetiti, vabbè, gliela torci sopra la gomma del polo caldo con un pezzo di gomma e poi gli avvito il piede sopra e glielo avvito, praticamente glielo aggancio con la tenaglia, sono venuto ben male. Ma perché non glielo saldi tu centrale? Glielo taglio, certo. No, lo saldi. E certo che glielo saldo. Ah no, pensavo lasciarsi senza saldare. No, non rimane più, Cosa sta succedendo? Non rimane più il PTT, adesso un attimino, va. Mi prendete? Vai Riccardo. Di Saturn lo fanno il Pretrus, l'Excalibur, non mi ricordo quanti sono due o tre le marche che cambiano solo il nome, Lafayette lo chiama Pretrus, Saturn Echo ce n'è uno e poi ce n'è altre due o tre marche, non mi ricordo come si chiamano, e sono uguali, cambiano solo i colori, qualche cosa, perché poi c'è Saturn Echo Turbo che c'ha qualche watt in più, l'hanno aggiornato, ma insomma, sono apparati completi comunque, sono degli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80 e vanno più che bene, di modulazione sono ottimi, ricezione è così, c'è di meglio. Ora. No, ma glielo detto a tuo babbo, quello lì arriva da 0 a 30, non ne fai niente, sinceramente, se vuoi ascoltare le bande amatoriali HF, ma se vuoi ascoltare altro non basta, è un'ottima radio, niente da dire, però tanto vale te ne compri uno più largo che sale sino a su. Gli ho mandato un video di uno da attaccare al computer, quello è una grandissima radio, però devi attaccarlo per forza al computer, un SDR, eccetera eccetera, quello è bello perché è completo, puoi manipolare tutto, fino al 2003 arriva, o se no ti trovi se ti piacciono, secondo me se trova un ICR 7000 o un 7100, non dico a salire di più perché sennò costerebbero troppo, sono belle radio già a 220, apprendi e attacchi. No, vediamo un po' se rimane, aspetta, no, beh, scusa. No, non rimane più. Ma il lock si è rotto? No, non è che si è rotto, praticamente rimane la scheda più bassa all'interno, no? Ci ho messo lo spessore, però o si sposta, non lo so, e non mi tiene il lock. Va bene, non mi tiene. Ma perché tu lo usi il lock? Ah? Quello che lo uso. Sì, che lo uso, però mi tiene, guarda, aspetta. Meglio non rimane. No, io non lo uso mai, anzi, se non me lo dimentico che è già attaccando. Sì, vabbè, ma se devo fare magari qualche lo tengo, là. Siamo le mani. E anche quello del coso, io ho un MS600, secondo come lo tieni, non, lo muovi non ti tiene, perché c'ha la cosa quadrato, il pulsantino quadrato, e sale sul perno, guarda, solo curica per appena rimane puntato. Vabbè, invece vai a sciocca un attimo, riprendi Riccardino. Allora, quello che mi hai fatto vedere tu, tuo babbo me l'ha mandato, quello è una grande radio, però è limitata a fare da 0 a 30 MHz. Ed è ingombrante, non è una radio piccola, non è che te la puoi portare in macchina o una cosa del genere. Il prezzo, diciamo, è quello lì il prezzo suo, dai, più o meno così già va bene. E naturalmente bisogna avere se tutto funzionante, eccetera, perché la radio, diciamo, c'ha già un po' di anni, c'ha una quarantina d'anni con la radio, non è nuova. E, diciamo, il prezzo è abbastanza ragionevole, ho visto c'è anche la scatola, le istruzioni e tutto, però è limitato, se vuoi ascoltare altro non so cosa te ne fai. Le HF sono le onde corte, onde lunghe, onde medie, sono tutte quelle lì, lavorano di lì, ci sono anche le radio broadcasting, diciamo le radio nazionali di tante parti del mondo, ce n'è da ascoltare tantissimo, in percentuale i canali di tutte le radio sono lì, però se vuoi ascoltare anche altre cose, comunicazioni di aerei, di cose del genere, non fai niente, ti fermi lì, cioè devi salire oltre i 30 MHz, non prendi niente perché è limitata lì. Sì, puoi fare anche così, però tanto vale che ti cerchi un ricevitore completo che ti salga direttamente senza prendere uno per le cose. Io ne ho tanti, diciamo, perché è meglio averne dedicati per ogni banda di frequenza, è meglio averne uno dedicato che è più performante, riesce a ricevere meglio, perché se sono segnali deboli è più selettivo, eccetera. Però non devi stare ogni volta a spostarti, cioè se c'è la possibilità di farlo, sì. Io spazio già nero, grazie a Dio, però ti puoi prendere, se volete ascoltare senza avere pretese allucinanti, la R3000, che lo puoi mettere in casa, lo fa alimentare col suo alimentatorino a 12 volt a 220, oppure te lo porti anche in macchina con la presa dell'accendisigari e lo fai funzionare in macchina, tanto non è molto grande. Vediamo un po' se regge adesso, aspetta, prova, aspetta, oh. Sì, adesso regge, a posto. Ti ho messo un altro spessorino, madonna. Cosa le hai messo? Un spessore, roba, per tenere la scheda più alta, perché la scheda rimane più bassa, no? La scheda del circuitino che c'è dentro, no? Cosa succede? Che la scheda rimane più bassa, lo spessore che ha il PTT, praticamente non ce l'ha fatta nel lock. Adesso, siccome la scheda è più alta, lo tiene, aspetta. Scende, guarda, questo si è staccato. Fai degli spessorini, Luca, utilizzando le penne Bic o qualunque penna, pennarello, e le tagli tutte uguali col coltello e ti fai degli spessorini in modo che te lo sollevi un po'. Infatti faccio così. Prendi il pennarello che è più comodo perché la Bic è ringrinata, il pennarello che è liscio, lo tagli col coltello, te ne fai due o tre, dimmi due o tre, quattro ce ne vogliono. Sì, faccio così, dai. Ma che non c'hai degli spessori di qualcosa, non mettere rondelle, è preferibile mettere cose isolante, se c'hai dei gommini, dei piedini di qualche cosa, di qualche oggetto di casa, quegli spessori in gomma che tengono antisdrucciolo, dai. Yeah. È meglio sempre mettere roba isolante, mai roba metallica, perché magari ti tocca qualche pizza o qualcosa e fai magari dei corti e dei problemi. Ok, facciamo un attimino di bianco, vediamo se il 10 è ancora disponibile. Per qualcuno, avanti canale 10, non c'è nessuno, meno male che il QRM finalmente si è abbassato, se non capisco perché a certi orari sale a 9 e poi riscende. Vai Riccardi, riprenditi il mic. Eugenio è caduto dalle scale, stava andando a prendere il baracchino, dal quinto piano non è caduto nella tromba delle scale e si è azzoppato. Adesso sicuramente vanno a recuperarlo. Ci sei Eugenio? Ma questo bip che c'hai è l'originale della radio, Luca? Cosa? Il bip è l'originale della radio? Sì, sì. Ma è escludibile o fisso? No, è escludibile. No, a me piace il bip, è una delle cose che non mi dispiace. Per dire, così sai quando hai smesso di parlare, l'altra parte, l'interlocutore, sai quando smette. È una cosa che mi è sempre piaciuta. E beh. Mi Antonello. Aspetti, passo uno, vediamo se lo riconosci. Ma a me stai dicendo. Vediamo se lo conosci la voce. Magari. Giovanna, microfono mio. Cioè non ho sentito nessuno. Chi è? Cazzo, Giovanna ti ho detto. Giovanna? Mario, non sapevo che eri tu. Ah, infatti non ci avevo sentito tipo un grido, ho detto, pensavo che fosse coso, Bracco, che fosse venuto lui a casa tua. Sì, Bracco, non lo conosco Bracco io. No, perché ieri stavate parlando di roba di medicina, Mario, ho detto, ecco, guarda se lo conosci, io pensavo lui, non mi immaginavo mai sua sorella. Quello della psoriasi era, il Bracco è dove c'è butta un gas dentro, si accendi con l'accendino, ma lui quando lo spusta per il fuoco, cazzo. Ehi, ok, ciao Giovanna, ben sentita, anche se non ti ho sentito, dai. Ehi, non ti preoccupare. C'è anche Luca e Riccardino, avanti Luca. Ehi, ciao Focacco. Ehi, aspetta che sta riuscito un attimo in terrazzo, già rientra fra poco. Faccio un attimo di becco, sto cugilando sto. Ciao! Sentita Luca. Sì, ho sentita, ciao Giovanna. Ok, va bene, dai, Bianco un secondo. Vai Riccardo. Giovanna è a casa di Antonello, tieni presente, per cui il segnale è molto molto più forte. Piano piano Riccardino sta prendendo tutti i vocaboli, tutte le parole, i modi di dire del coso, dei baracchini. Non è una cosa, è notatelo. Sono dei satelliti, cos'è questo satellite? Ah, satellite, ho capito satellite, no, 3004 è una cosa, il topo di gamma della Grundig, è più completo, ha le bande laterali e tutto, io ce ne ho due di quelli. 2004 è la versione un po' più povera, dai, anche quella è una bella radio, dai, ce ne sono, c'ha meno gamme d'onda, meno, no, forse digitale comunque, mi sembra che non ha forse l'orologio, c'ha lo Smith più piccolo, è un po' più piccola come radio, dai, non dico la metà, ma quasi, questa c'ha, mi pare c'ha 14 bande, più c'ha un sacco di cose, di memorie, eccetera, per essere una radio di quel periodo non ce n'erano altre all'epoca, meglio di quelle. Il 2004 è molto raro e chi ce l'ha se lo tiene, a meno che non se lo vende perché c'ha qualche problema. Io ne ho uno, mi sembra ve l'ho già detto, che è nuovo fiammante, è usato da una persona che lo usava per lavoro, per fare delle ricerche. E poi c'è un altro che aveva dei problemi, che è stato sistemato, c'ha l'antenna rotta, vabbè, ma già si sistema. E poi gli avevano mandato, anziché da 220, cioè era commutato a 110, l'hanno mandato alla 220, è partito un diodo, è stato sostituito e ritorna alla grande, in ricezione tutto il resto è tutto a posto. Sì, aspetta, mi chiudo il microfono, riprendo. Ma tu 3004 l'hai già visto come ha fatto Riccardo? No, se ti mando la fotografia te lo faccio vedere. La faccio vedere sabato, venite, io ci sono sino alle 10 in officina, poi Mario fammi uno squillo, glielo dice a tuo babbo, te la faccio vedere, ti mando la foto del satellite, dai, te la faccio vedere in diretta. Come? No, che cosa mi disturbi, non c'è problema, poi tanto sabato lavoriamo per riordinare, basta, dai, poi già ci mettiamo una... sbagliato qualcosa, in realtà non ho capito. Luca c'ha il blocco del microfono, il look si chiama, vuol dire chiuso, inserisce fisso alla portante, cioè puoi parlare senza tenere premuto il tasto del PTT e non rimane premuto, per cui deve stare col dito tenendolo schiacciato ogni volta. Te lo rimando, no, c'hanno tutti il look, tutti i microfoni, ma che non sono microfoni per voce, quello non ce l'hanno. Te l'ho mandato, l'hai visto? L'hai visto? Ti ho mandato il coso, il coso, il satellite 3000. Eia, c'è la buona carica. Sì, a dopo, aspetta, abbiamo finito ancora. Ok, vediamo se il dottor Eugenio c'è ancora. C'era qualche altro in radio, c'era Antonello, Giovanna, dai, riprendetevela, Giovanna o Antonello, uno dei due. E beh, non vi abbiamo nessuno. Ora. Ho capito cos'era il problema l'altro giorno che stavo slatterando, Luca. Questo cacchio di TM1000 c'aveva il tasto, non era inserito, l'hai visto come è fatto il TM1000? No. TM1000 è un accordatore, quelli della Tetragi che sono cagattine, giocattoli, e sotto c'è il tasto on off, che è commuta il coso, era disinserito, per cui andava tutto un rientro, faceva un macello. Ah, ecco. Non era il baracchino, infatti ho detto, ma strano, anche con l'altro faceva lo stesso problema, e ha detto, c'è qualcosa che non quadra, infatti ho guardato bene, perché era accordato, eccetera. Vedevo che c'era un rientro tra un baracchino e l'altro, siccome sono collegati poi a un altro commutatore, da uno passava da un baracchino all'altro, faceva un rientro, per cui come che stavi andando con due baracchini in contemporanea. Ah, ho capito, ma sono sistemato, vediamo un po', cioè, ma che vada, sta prendendo adesso. Io ho anche un commutatore a pedale, lo sai, per parlare lui. A pedale? Gli amatori, quelli di un certo livello, che non ho voglia di schiacciare il tasto, se lo mettono nel piede, dunque schiacci e parli col piede. Roba vecchia? No, non è solo roba vecchia, anche molti musicisti li usano certe volte per certi tipi di cose, non so se l'hai mai visti, quando per dire devono commutare un amplificatore, per dire devono fare un suono con una chitarra, poi ne commutano un altro, è sempre Kenwood, di marcato Kenwood, non c'ha niente a che vedere con queste cose qua, con le radio e di un sito amplificatore. E in dotazione mi hanno dato anche il comando a pedale, perché quello si chiama Kenwood compositore, quello che c'ho io, di lì poi c'ha un sacco di funzioni, è un sito amplificatore, fa la radio, sito amplificatore, più c'ha ecco, riverberi, generatori di ritmi, un sacco di roba, più attaccare le chitarre, e più c'ha questo comando, un po' di microfoni, una radio, se lo vedi, è enorme, un barrasone, l'avevo trovato in un mercatino, l'ho preso al volo, ma lo sai quanto è quotato quello lì, quello me l'ha venduto, non sappia nulla, l'ho messo su internet, la gente lo sai, cacchio, non l'hai trovato, è una cosa rarissima, perché ti ricordi il Royce quanto è grande, tu fai conto, il doppio di altezza è una volta e mezza di larghezza, pesa 20 kg, è una cosa enorme, ce ne ha poche di cose attaccate. Cose magari, via, sta tenendo, via, sono un po' toccato il PTT. Perché è utile, vai, mi risposto, vedi, perché sto facendo, se possiamo andare, cacciamo il beat così, prendo quello e rimane, là. Esci a vedere, ok, esci a posto. Tu li fai degli spessorini in plastica e poi li metti dei gommini, dei pezzettini di gomma sotto, Luca, di qualche cosa, guardacelo, in modo che quando schiacci ammortizzi, se no tendi a fare del danno, te li metti appena appena, in modo che non fai troppo forza. Via, Roma, dammi 10 minuti che vado a fare la puntura a mamma, là. Ok, a dopo, dai. Ok, io tengo acceso, se rientra qualcuno nel frattempo, se no a dopo, adesso, a dopo, menando, cosa a dopo? Sì, io anche come traccia la pomponio anche, dai, anche lui, arrivo subito. Ok, dai, attraverso c'è ancora. C'è qualcuno qua sul 10? O parlo col muro? Hola. Hola. Vediamo come siamo messi qua. Uno. Che è avanti il fischio.